Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, buona e perfetta domenica, mentre tutte noi o tutti noi sappiamo che per il resto noi siamo imperfetti e ci va bene così. È la nostra condizione, smettiamola di pensare che essere perfetti debba essere, come dire, un'aspirazione. È solo una grande rottura di scatole. E comunque, sempre perché è domenica ed è anche spesso, no, la giornata in cui ci si concede uno stravizietto alimentare in più, un dolce in più, una cosa più golosa, e questa è la domenica in cui, esplorando noi sempre i temi del lavoro dal punto di vista dell'angolazione femminile, vorremmo riflettere su come può cambiare la nostra giornata di lavoro a seconda di quello che mangiamo. Come può cambiare la nostra giornata di lavoro a seconda di quello che mangiamo? Può sembrare, come dire, marginale, un dettaglio, e invece è importantissimo. Pensate che il rapporto Food at Work, Workplace, Solution for Malnutrition, Obesity and Chronic Disease, che è stato pubblicato dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, sostiene che una non adeguata alimentazione nei luoghi di lavoro nuoce alla salute di chi è impiegato e può provocare una perdita di produttività pari al 20%. Bene, non so come si alimenti il nostro agente provocatore, secondo me ogni tanto deve mangiare qualcosa di piccantissimo perché poi si vede sulla sua azione professionale questo influsso, ma sono probabilmente solo un po' troppo maliziosa e comunque voglio proprio sapere cosa pensa lui di questo, del contenuto di questo rapporto, perché magari i rapporti, soprattutto quelli che sembrano confermare le nostre certezze, lasciano il tempo che trovano. Benvenuto a Nessuna è Perfetta, Andrea Scanzi. Io prima malignamente osservavo che dovresti essere un grande, come dire, uno che apprezza moltissimo i cibi piccanti. Lo dico perché la tua è una scrittura di quelle, diciamo, parecchio acuminate, o almeno considerato lo standard, è acuminata. Dunque, ma è vero che invece tutte queste mie elucubrazioni sulle tue preferenze alimentari sono totalmente infondate perché sei diventato vegetariano o vegano? Ma premesso che non so quanto sia realmente acuminato e premesso che il peperoncino mi piace molto, sì, sono vegetariano, vegano no, anche se in casa tendo a evitare anche i formaggi, ma fuori mangio tranquillamente formaggi, uova e ogni tanto mi è capitato anche pesce, ma sono vegetariano dal 2001, quindi ormai sono 16 anni. E in che cosa, come dire, che cosa ti ha mosso a questa scelta? Inizialmente è stata semplicemente la compagna che avevo all'epoca, che poi sarebbe diventata mia moglie, oggi ex moglie. Era il 2001, avevo 27 anni, lei mi insisteva sul fatto che la carne facesse male, soprattutto la carne rossa, aveva un po' anticipato a suo modo, secondo certi studi, quello che poi avrebbe detto Veronesi, teorizzandolo molto meglio. Io non amavo granché la carne, anche se sono toscano, e l'ho seguita. Poi 2-3 anni dopo questa scelta un po' salutista è diventata una scelta etica e c'è stato un libro in particolare, Maria, che mi ha colpito molto, che è stato Se niente importa, che uscì, mi sembra, nel 2000. 2007-2008, l'autore è Jonathan Safran Foer, sì, certo. famoso per altri sì. romanzi, non per quel saggio, però quel saggio mi arrivò addosso in un momento in cui stavo per ricominciare a mangiare carne, perché dopo 6-7 anni dissi vabbè dai ricominciamo. Mi lessi questo libro mentre ero in volo, se non sbaglio, verso il Qatar, ed è un'analisi impietosa su come funzionano gli allevamenti intensivi, e lui alla fine diceva: se proprio volete la carne, almeno andate a sceglierla dal macellaio che sapete dove la prende, cercate di mangiare animali che hanno vissuto il più possibile liberi fino alla fine, perché non vi rendete conto la sofferenza che c'è in un mattatoio, ma anche le schifezze che si mangiano se vengono da quei mondi lì, come vengono cresciuti i vitellini, come vengono cresciuti i maiali, i polli, eccetera. Quella cosa lì fu così forte per me che dissi, scendendo dall'aereo, sai che c'è, io non lo rimangio più, e sono stato di parola. E nella nostra, diciamo, ossessione per rendere più leggera la vita, dovendo tutti poi lavorare, chi ha la fortuna di avere un lavoro, in questa domenica vorremmo cercare una relazione tra quello che si mangia e come si lavora, perché il cibo ha ovviamente degli effetti, proietta degli effetti positivi o negativi su una giornata. Quindi se è una giornata di lavoro e si è mangiato qualcosa che è sbagliato per il nostro corpo, è un disastro. Tu come ti regoli? Cerco di mangiare il più leggero possibile, soprattutto a pranzo. Ma fai delle colazioni di lavoro tu spesso? No, perché non lavorando in redazione di solito la gestisco molto bene la colazione, perché spesso sono a casa, sono in hotel, quindi ho il tempo che di solito uno che lavora in ufficio non ha, quindi sono un privilegiato. Però cerco di essere di stare abbastanza leggero, di fare verso le 10-10:30 una colazione abbastanza abbondante per poter mangiare meno a pranzo. La cosa che mi concede non è il massimo della salute, però di solito mi concede una cena un po' più divertente. Si tende a dire che sia meglio mangiare di più a pranzo, sì, che non a cena, sì, e che è anche vero, soprattutto. Ecco, diciamo che io la sera evito i carboidrati, però il bicchiere di vino in più mi capita e magari mangio un po' di più, ma perché di solito alle 9, alle 10 è il momento in cui posso festeggiare la fine della serata, mi rilasso, magari dopo uno spettacolo, dopo una trasmissione televisiva, e lì è il momento in cui molli un po' gli ormeggi e te la godi un po'. Ecco, ma quando per esempio sei sul palco, prima mangi? Perché c'è sempre, no, questa idea di performance legata al cibo, c'è chi beve delle grandi tazze di tè zuccherato, c'è chi non mangia fino a quando non ha finito lo spettacolo. Cioè, la tua scelta di alimentazione è legata alla performance, per esempio teatrale, che è più impegnativa, sì, che scrivere un articolo, no? Sì, è più impegnativa, devi essere in forma, devi avere la voce bella calda. Io appartengo alla scuola del mangiare dopo, perché se mangio prima tendo a rallentarmi, tendo ad abbioccarmi, per dirla in maniera molto prosaica. Quindi verso le 6-6:30 mi faccio un bel tè, possibilmente con un po' di miele, cerco di scaldare un po' la voce, però non mangio mai prima perché mi appesantisce, ho il cervello, me lo sento molto più lento. Anche lì è chiaro che non è il massimo andare a mangiare alle 11:30, però non ti mangi la pizza, eviti i carboidrati, cerchi di mangiare cose più o meno digeribili, e è tutto da dimostrare. Però se mangi prima sei molto molto più rallentato. Io non conosco nessun teatrante, sono tutti molto più bravi di me, che mangi o abbia mangiato tanto alle 8 di sera. Si mangia e quei meravigliosi pranzi di lavoro che per esempio si vedono nelle serie televisive come Mad Men, no? Quando negli anni 60 uno portava a pranzo il cliente e John Draper portava a pranzo il cliente, pranzi che duravano 2 ore e mezza, 5 martini, primo, secondo, eccetera. Ma uno si chiede, ma poi effettivamente i contratti si facevano, era tutto molto più semplice a quel punto. Beh sì, soprattutto al quinto Martini probabilmente era più semplice. Io non li ho mai visti fare, però, nella realtà. Cioè, fare dei pranzi di lavoro negli ultimi anni a me non è mai capitato di partecipare a pranzi così divertenti. Se sono pranzi in quel modo non sono più pranzi di lavoro, sono pranzi per scherzare insieme, ma lì già il lavoro diventa qualcosa di molto più laterale. Senti, l'ultima cosa che volevo chiederti, ma secondo te in politica chi è che pranza peggio e quindi ha effetti? Cioè, dovendoli guardare da fuori, chi ha un'alimentazione che tu come dire, correggeresti senza per questo imporre il tuo veganesimo? No, figurati. Ma io, guarda, te ne cito tre di tutti i partiti, perché li ho visti tutti e tre sofferenti. Renzi l'ho visto molto sofferente nella fase pre-referendum e si vedeva che era molto più appesantito, un po' più gonfio. Lui, che di solito tende anche a stare molto attento, fa maratone, corse, secondo me soffriva molto la tensione e la sfogava molto anche nel cibo. Era un po' bulimico nell'ultima fase pre-sconfitta referendaria. Dopo la sconfitta referendaria anche dopo la resistenza, sì. Dubbio, sì, dopo ha avuto uno o due mesi in cui a febbraio era molto poco in forma, è vero. Di Maio, lo ha detto lui stesso, si è sentito male qualche settimana fa anche per qualche eccesso di stress anche alimentare, e quindi a un certo punto è dovuto andare all'ospedale, ha fatto un break e gli hanno detto rallenta perché non ce la fai a gestire, perché probabilmente se uno gira costantemente, lo dico per esperienza personale, certo, mangia male e poi il corpo, esatto, reagisce. Esattamente, è un classico, perché non hai più regole. E secondo me un altro che esagera un po', e lo si vede, basta ascoltarlo e guardarlo, diciamo solo guardarlo, ascoltarlo è cattiva, è Salvini. Ecco, anche lui non mi sembra che in questa fase sia uno che quando si siede a tavola dice ecco sto attento alle calorie, non mi sembra così osservandolo, posso sbagliare ma non credo. Grazie Andrea Scanzi, buona domenica. Grazie a te, grazie a voi, ciao. Ciao. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore, scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24, un programma di Pino Insegno. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Lo sapete, è il momento della nostra Sunday Girl. Benvenuta, buona domenica, Micaela Ramazzotti, attrice nelle sale dal 24 aprile col nuovo film di Gianni Amelio, La tenerezza. Micaela Ramazzotti, reduce dal grande successo del film La pazza gioia di Paolo Virzì, premiato anche ai David di Donatello, e ad ottobre l'avevamo vista in Qualcosa di nuovo, il film di Cristina Comencini. Ora questo film... dal titolo che ci piace molto, perché tenerezza è esattamente lo stato d'animo opposto a quello che si trova spesso nel day by day, nella vita quotidiana. Noi troviamo ansia, troviamo rabbia, ma tenerezza in giro poca. Ecco, il film racconta il rapporto difficile di un avvocato ormai in pensione che non è stato capace di un legame, di stabilire un legame con i suoi figli, e invece lo stabilisce con i vicini di casa. Perché la tenerezza? Cosa c'è dietro il titolo del film? C'è dietro questo titolo, questo aggettivo così importante, anche così difficile da raggiungere, perché poi la tenerezza è un sentimento molto nobile, molto prezioso. Si eleva tanto quando riesci a sentirla come emozione, quindi dietro sicuramente c'è la voglia di voler ripartire, ecco, ripartire con le persone che si amano, che si amavano, insomma, buttando un po' giù i muri che si sono costruiti. È difficilissimo sciogliere i nodi, però insomma non è facile. E quindi probabilmente il personaggio di Lorenzo, interpretato magistralmente da Renato Carpentieri. Quindi un avvocato anziano sul quale pesa il mancato rapporto affettivo con i figli. E preferisce probabilmente instaurare un rapporto con una sconosciuta, con una vicina di casa, che sarei io. Per questo dico, la tenerezza è un sentimento che probabilmente lui in una parte del film lo instaura con me, poi però man mano si renderà conto che di fare appunto dei passi indietro, perché avere un gesto di tenerezza è anche fare dei passi indietro, ecco. Di tenerezza nella fase sociale che viviamo ce n'è poca, c'è pochissima tenerezza nel mondo dei social, dove c'è invece spesso aggressività, e mi sembra molto bella la scelta del titolo. Lei la tenerezza come la manifesta? Beh, la tenerezza la va e viene, è un sentimento come tanti, come la rabbia, come la passione, sono sentimenti, noi ce l'abbiamo tutti dentro di noi, a un certo punto escono all'improvviso, a un certo punto però dei sentimenti è bene coltivarli, perché la tenerezza scansa l'ansia, la tenerezza è apertura, è morbidezza, anche una voglia di non guardarsi sempre alle spalle, di difendersi sempre di continuo, alla fine anche di buttare un po' giù le corazze, perché tanto è inutile, no? Progettare sempre qualcosa su di noi, no? Su noi stessi. Invece la tenerezza è un atto anche di coraggio, secondo me. Beh, io ho un ricordo di pochi giorni fa, come dire, mi ha suscitato tenerezza un anziano clochard che era seduto su marciapiedi a Parigi. Mi sono fermata per lasciargli una moneta e lui poi mi ha seguito in mezzo alla strada tra le macchine per regalarmi un coniglietto di cioccolata, perché il coniglio è l'animale pasquale in Francia. E invece quando è l'ultima volta che si è affacciata la tenerezza nella vita di Micaela Ramazzotti? Guarda, proprio ieri con il mio regista, con Gianni Amelio, è successo proprio con lui, perché mi ha abbracciata prima della conferenza stampa, perché io ho detto ogni volta che presento un film alla stampa Gianni mi batte il cuore, perché presentare un lavoro che abbiamo fatto così importante, lui ha preso e mi ha stretto forte. Questo è un gesto di tenerezza, tenerezza vuol dire anche rassicurare. Veramente è il bene più prezioso. Io sono molto felice in questo momento storico di aver fatto questo film. Certo, il film di Gianni Amelio è in controtendenza. Tenerezza contro aggressività quotidiana. La tenerezza è una chiave, no? Sì, è una chiave, perché poi in qualche modo tutti questi... Cioè, le persone adesso, la gente mette su dei muri altissimi, no? E invece bisogna buttarli un po' questi muri, perché altrimenti continuiamo a farci del male da soli. C'è proprio bisogno di apertura. La tenerezza è un gesto di grande apertura. Io penso che se pian piano tutti noi riuscissimo un pochino a coltivarla, a non farci prendere dall'egoismo personale, dalle nostre carriere, dal livore, da sentimenti invece che vanno appunto contro, secondo me sarebbe tutto migliore. Certo, queste sono parole un po'. Certo, bisognerebbe avere anche una sana indifferenza rispetto a quanti con un eccesso di cinismo magari ironizzano sul buonismo, sul fatto che si guarda appunto con un occhio affettuoso alla realtà, e alla fine uno potrebbe dire sì, sono buono, e allora? Sì, anche perché voglio dire, ci si nasce anche un po' con quella natura lì, nel senso che io ho provato, no, qualche volta a dire ma ora voglio essere voglio essere un po' più stronza, ma non ci sono riuscita, non sono in grado, non mi sento in colpa dopo 3 secondi. Ma come ci si difende dal cinismo, dalla stronzaggine? Bah, secondo me con l'apertura, con entrando anche dentro, in contatto con la persona, cioè con la curiosità, perché secondo me anche la persona che apparentemente sembra, poi dopo se scoperchi il pentolone della sua vita, trovi tante di quelle cose che ti suscitano tenerezza, insomma è un'apparenza, poi alle volte. Grazie alla nostra Sunday Girl di questa domenica, Micaela Ramazzotti. Grazie per aver introdotto in questa nostra giornata un po' di tenerezza, proprio dal titolo del film di Gianni Amelio, col quale, lo ricordiamo, è al cinema dal 24 aprile. In fondo, una domenica con un po' di tenerezza non fa male, no? Ma anche un lunedì, un martedì, un mercoledì, un giovedì e via dicendo. Grazie a te. Good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Das aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega? Nessuna è perfetta. Eccoci, questa è la nostra terza parte del programma di Radio 24. Questa volta Nessuna è perfetta, guarda la vita sui luoghi di lavoro da un'angolazione particolare, perché, lo dicevamo prima, una alimentazione sbagliata sul posto di lavoro, cioè durante la giornata di lavoro, può non soltanto procurare dei danni alla salute e provoca anche una perdita di produttività, per cui uno magari si danna per finire un rapporto, per portare a conclusione una relazione che deve scrivere o per portare a casa un contratto, poi invece ha mangiato male e questo finisce per influire negativamente sulla sua giornata. Vorrei sapere qual è l'opinione di uno dei nostri due esperti di questa domenica, il professor Nicola Sorrentino, specialista in scienza dell'alimentazione e dietetica e direttore della Columbus Clinic Diet. Allora, professor Sorrentino, secondo il rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, una alimentazione sbagliata, non adeguata, provoca una perdita di produttività pari al 20%. Premesso che non credo che nessuno oggi, no, mangi cibi pesanti nelle mense e nemmeno nel bar sotto casa, può essere sbagliato anche magari prendere troppi caffè oppure prendere solo uno yogurt perché ingeriamo pochi zuccheri? Cioè, dove si commettono gli sbagli nella giornata, allora, di lavoro? Certamente l'alimentazione influisce per stare bene, anche sul luogo di lavoro o anche per i ragazzi che studiano. Io rispondo sempre: cibo facilmente digeribile, dosi contenute, giusta ripartizione tra i vari nutrienti. Il cibo che ci fa stare bene, vigili, attenti, prima di intraprendere una giornata di lavoro o riunione importante o lo stesso giornata di studio, deve essere quel cibo che non deve portarci a fare una digestione laboriosa. Quindi meglio proteine? No, meglio soprattutto carboidrati. Prendiamo il lavoro come se fosse un'attività sportiva. Sì. Se io ho una gara sportiva, devo per forza avere degli alimenti che permettono, che mi danno energia, mi fanno stare attenti e mi fanno anche ragionare meglio. Carboidrati che significa? Significa certamente la pasta o perlomeno il pane oppure gli stessi cereali. Ma per esempio se uno mangia nella mensa aziendale o nel bar sotto casa un piatto piccolo di spaghetti con poco pomodoro e un po' di parmigiano, quello va bene per una giornata di lavoro? Per la giornata di lavoro, se logicamente noi dobbiamo affrontarla di pomeriggio, logicamente se dobbiamo affrontarla di mattina prenderemo delle fette biscottate o dei cereali con dello yogurt, del caffè o del tè. Prima lei ha parlato del caffè, certamente il caffè è importante perché ci dà energia, perché migliora il tono dell'umore, perché ci permette di stare meglio, quindi il caffè yogurt, cereali di mattina. A mezzogiorno certamente la pasta con delle verdure sono perfette, però dobbiamo fare attenzione alle cotture, perché quando noi diciamo pasta non diciamo carbonara o matriciana, diciamo un pasta con un sugo di verdure leggero. Ricordiamoci che se noi abbiamo bisogno di energia e se noi dobbiamo permetterci una digestione rapida, veloce, leggera, dobbiamo introdurre i carboidrati. Poi se abbiamo bisogno di fare, faccio un esempio, una cosa veloce, allora lo stesso o la stessa frutto o la stessa bevanda con del miele o una fetta biscottata con miele ci dà quell'energia immediata. Però quindi zuccheri? C'è bisogno zuccheri. Di zuccheri per mandare avanti il... Zuccheri semplici se deve essere... lo spazio è poco di tempo, però se abbiamo bisogno di tempo prolungato dobbiamo introdurre i carboidrati complessi, pasta, pane e così via. Se la giornata si allunga, no? E a un certo punto si avverte il bisogno di mangiare qualcosa a metà mattina o a metà pomeriggio, vuol dire che non abbiamo fatto una colazione adeguata o che abbiamo mangiato male a pranzo? E in questi casi, siccome lei dice sì, prenditi una mela, facile a dirsi, ma magari uno una mela non ce l'ha o non se l'è portata dietro. Che cosa si può portare dietro uno in ufficio? La corretta alimentazione dice che noi dobbiamo fare due pasti principali, una prima colazione e io li chiamo i piccoli rabocchi, cioè dei piccoli spuntini per fare in modo di arrivare al pasto successivo con meno fame e per avere quell'attenzione e quell'energia che ci serve per spezzare anche la giornata. Quindi la merenda ideale per il giovane, per lo sportivo, per chi lavora è la frutta secca a guscio. Perché? Perché è un alimento sano, perché ci fa stare bene e perché ci dà anche quel poco di energia che ci serve. Quindi un pugnetto di mandorle e noci. Benissimo, 10-15 mandorle, 3-4 noci, 15-20 pistacchi. E per chi ama, per esempio, io vado pazza per le albicocche, quelle disidratate, ma sono certamente piene di zuccheri. Certamente, se noi non esageriamo... Due albicocche disidratate vanno benissimo. Se uno ne mangia un pacchetto, come faccio io. No, allora cominciamo ad esagerare, perché in questo caso introduciamo troppi zuccheri, perché è vero che ho detto che ci vogliono gli zuccheri, però alla fine anche troppi significa che non fanno bene. Per concludere, ci fa l'esempio di un pranzo di lavoro sbagliato. Facciamo che io porto a pranzo un cliente, devo concludere un contratto, voglio fare bella figura. Il pranzo sbagliato, che poi alla fine non ci sto più con le energie e quindi non riesco a concentrarmi sulle cose che voglio dire, è quello giusto. Allora, il pranzo sbagliato è certamente un pasto abbondante. Già l'abbondanza significa sbagliare, perché una digestione laboriosa non ci fa stare Quindi bene. Se prendiamo un antipasto, un primo, un secondo, una bottiglia di vino e il dessert, sbagliamo, ovviamente. E anche se noi prendessimo delle cose sane, alimenti sani, significherebbe in ogni caso che noi mangiamo in modo abbondante, quindi la nostra digestione verrebbe prolungata e quindi non sarebbe un pasto sano. Quindi meglio un piatto e un'insalata, per esempio. Perfetto. Oppure se poi quel pasto è lo stesso, però anche ne mangiamo meno, però è fritto, soffritto, con grassi animali, lo stesso sarebbe sbagliato. Certo. Quindi il piatto ideale è un piatto di pasta con delle verdure. Oppure nessuno ci veda di mangiare un buon pesce al sale o al vapore con delle verdure, anche se sono proteine, perché in quel caso sono talmente in dosi ridotte che non ci darebbero quel problema di digestione, perché il problema è soprattutto la digestione. Quindi tenere conto di un piatto unico e poi col caffè un dessert è consentito o si eccede con gli zuccheri? Assolutamente, un piccolo dessert è concesso, logicamente sempre nelle dosi adatte. Invece di prendere il frutto prenderemo un piccolo gelato alla frutta o prenderemo anche un piccolo dessert, una fettina di crostata, benissimo. L'importante è che noi non esageriamo. Senta, l'ultima cosa prima di salutarla, ma la domenica, se visto che noi di domenica andiamo in onda, se si concede uno davvero un pasto di quelli ricchi a pranzo. Ecco, la domenica sera poi mangiarci sopra la pizza, come facciamo in tanti, è un disastro. Io dico che il cibo è dato anche dalla convivialità. Se noi lo facessimo ogni giorno probabilmente ci farebbe realmente male, ma se noi lo facciamo una volta a settimana non succede assolutamente niente. Certamente dobbiamo vedere in che modo trasgrediamo e quanto trasgrediamo, ma ben venga una pizza, anche perché fa parte della nostra cultura mediterranea. Certamente se noi nella pizza ci mettiamo gorgonzola, taleggio e la facciamo ai quattro formaggi, forse non la riusciremo manco a digerire bene. Poi diamo la colpa alla pizza, ma in realtà è quello che, è quello che c'è sopra, pizza che fa male. Quindi avete capito, stasera mi raccomando, se è pizza e pizza margherita e con poca mozzarella. Grazie, grazie al professor grazie Sorrentino. A voi, buona a voi. Domenica, grazie. Buona domenica. Io adesso voglio sentire l'altro campana, perché abbiamo sentito il professor Sorrentino, quindi consigli di un nutrizionista, ma che cosa consiglia una famosissima chef, star TV, scrittrice, imprenditrice e soprattutto una che conosce bene come funziona il meccanismo dei pranzi di lavoro, di quello che si mangia, di quello che fa bene, di quello che non fa bene. Benvenuta, buona domenica, Lidia Bastianic, è venuta a raccontarci che cosa è per lei il cibo. Ha scritto: un antidoto alla solitudine, rilassa, ma può essere invece un problema in una giornata di lavoro se si mangia male? Ma sì, guarda, il cibo è una cosa basilare per tutti noi, nutrimento di corpo, ma anche nutrimento di spirito, di anima, di compagnia. Dunque il cibo è connetta tutti quegli elementi della nostra vita, e quello che noi facciamo col cibo del cibo. E dunque io direi, se hai detto di un pranzo di lavoro, sì. Un pranzo di lavoro, guarda, i pranzi di lavoro, quando uno vuole proporre a una signorina, vanno tutti attorno al cibo. Raramente si fanno queste grandi proposte. Il cibo è che facilita il tutto, perché il cibo ci apre in un senso, noi si apriamo e non siamo così difensivi quando abbiamo il cibo davanti a noi, e dunque si apre un po' per tutto. Ma Lidia Bastianic, nei suoi tanti ristoranti a New York, in Missouri, in Pennsylvania, spesso no, ci sono le colazioni di lavoro, uno sì. Invita un cliente. Qual è secondo lei l'errore che i suoi clienti americani fanno, che facevano? Adesso magari sono diventati tutti più attenti a quello che mangiano. Sì, adesso devo dire che gli americani sono veramente attenti, vogliono essere informati. L'informatica in America è molto accessibile, dunque, però credo che sempre c'è l'usanza di mangiare forse il cibo sbagliato, le quantità sbagliate, le proporzioni del cibo, diciamo, a mangiare. La differenza, diciamo, di una dieta mediterranea, per fare l'esempio, è che quando tu mangi un piatto forte, un terzo sono le proteine, l'altro è un po' di verdure, un po' di legumi, e invece in America due terzi sicuri sono le proteine, un pezzo di carne, e dunque lì inizia già un grande problema di nutrimento. Perché per esempio una bistecca media quanti etti pesa quando viene portata in tavola? Una bistecca media pesa quasi, se vuoi un po' fare la figura alla grande, 16 ounces, dunque 16 onze, che è una panca, che è più o meno mezzo chilo. Beh, mezzo chilo per due persone? Ma che due persone? Per una persona. Per sì, una persona? Sì, c'è il grasso. Sì, se vuoi fare un po' le bistecche grandi. E poi sì, si può andare anche a meno, 8 ounces, 10 ounces, diciamo. 200, 300 etti. Ma dopo che uno si è mangiato due etti di carne a pranzo, poi come lavora, secondo lei? E quello lì è un problema, però sa, quando lei fa un pranzo per una persona cara, gli dà quello che il migliore che ha, quello che piace. Dunque per l'americano il migliore da offrire è un bel pezzo di carne, stagionato, che sia il taglio giusto, però è un modo anche di avvicinarsi o insomma a far vedere a quella persona che veramente la rispetti. E dunque i pranzi di affari praticamente dove sono uomini e steakhouse vanno di bistecca altro che il nostro agente provocatore che abbiamo sentito prima, Andrea Scanzi, che è vegetariano. Lì vanno di bistecca tre etti, quattro etti, senza problema. Ecco, sì, ma adesso si stanno guardando gli americani, devo dire, perché da recente ho letto che il 5% degli americani sono vegetariani, dunque stanno sempre più attenti, sì, il mondo sta cambiando in America. Lidia Bastianich, l'ultima cosa che vorremmo rubare alla sua esperienza, alla sua competenza, non solo di grande ristoratrice, ma di chef, è questa. È domenica, spesso si va al ristorante. Come si fa a capire se il piatto che ci hanno servito, il pesce che ci stanno servendo, ma la stessa carne che ci stanno servendo, è un prodotto fresco di qualità o no? Lo so che è una domanda da mille miliardi di però io ci provo. Sì, sì, va bene. Sì, no, è una domanda importante e anche difficile. E uno deve avere fiducia nel commerciante, diciamo, nel ristoratore, di quelli, deve avere la fiducia che questa persona veramente è conscia dei valori organici, che sia insomma cose fatte giuste, coi prodotti giusti. Sempre più, tanto in America quanto qui, so che il labeling, la scrittura sui prodotti che si compra indica l'origine, il valore, la quantità e tutto questo. E dunque bisogna essere sempre più informati, e se la questione è lì di chiedere da dove viene questo pezzo di carne, c'ha degli ormoni, e tutto questo qui è sta tutto nel cliente a chiedere, diciamo, senza avere pudore, perché se uno si rivolge a un ristoratore, come quando compra un vestito, chiede se questo è cotone o non è cotone, tanto più se ingerisci un cibo che può farti bene o male, c'è tutto il diritto di sapere da dove arriva. Sì, e noi come ristoratori, devo dire, in America siamo sempre più presti a seguire, c'è il problema del glutine, c'è il problema dei grassi, c'è il problema del sale. Dunque non è, viene in un ristorante, noi possiamo acquisire a tutte queste esigenze senza nessun problema, e il ristoratore, un chef, dovrebbe essere in questa maniera di pensare, per fare il meglio per il cliente, perché se vuole quel cliente bene e sano, per certo, il futuro deve aiutarlo, no? E poi se no il cliente non torna. Grazie Lidia Bastianich, che è stata con noi questa domenica, e già che l'acquolina in bocca si comincia ad avvertire. Buona domenica, Lidia. Buona domenica, Maria. Grazie. Ciao. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure dei Roni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono tre giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Nessuna è perfetta. Ben bentornati. Questa è l'ultima parte di Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. È il momento delle richieste, dei dubbi, dei problemi. Vi ricordo che potete scrivere a Nessuna è perfetta @radio24.it. Potete commentare con noi su Twitter usando l'hashtag Nessuna è perfetta e commentare su Facebook. Noi abbiamo parlato di cibo e di influenza del cibo sulle nostre giornate di lavoro ed è quello che è anche un problema per Livia. Da qualche mese nell'azienda in cui lavoro hanno attivato il servizio mensa. All'inizio ero molto contenta, ma adesso devo ammetterlo, sono davvero stupita per la qualità scadente del cibo che ci offrono. Pesce di dubbia provenienza, dicono cinese, spacciato per fresco, verdura e frutta in sapori. Insomma, speravo che fosse un benefit aziendale ed è diventato lo scontento aziendale. Vorrei rivolgermi a qualcuno per far presente che se ci danno cose pessime da mangiare, alla fine anche il nostro lavoro ne risentirà. Ma a chi potrei rivolgermi senza risultare maleducata e noiosa? Livia. Come il cibo può influire, direi appesantire, per usare una metafora senza troppa fantasia, le nostre giornate lavorative. La nostra coach Carla Ciani ci soccorre con le sue pillole. Un tempo si sarebbe fatto ricorso al sindacato, no? Perché nelle aziende, quelle grandi, il sindacato si occupava anche della qualità delle mense aziendali, ma oggi spesso si tratta di aziende piccole e quindi a chi rivolgersi? Le pillole di Carla Ciani, buona domenica. Buona domenica a tutte. La prima pillola farà comprendere a Livia che la mensa aziendale è un luogo in cui convivono aspetti formali e informali. Cioè in mensa la comunità aziendale si ricompone in una comunità di persone che declinano i propri gusti, le proprie abitudini alimentari, l'educazione che hanno ricevuto, ma nello stesso tempo sentono di continuare a stare nel modello organizzativo con tutti i suoi condizionamenti gerarchici, funzionali, e per questo le riesce difficile esprimere la propria opinione, cosa che immagino non esiterebbe a fare al ristorante. Questo condizionamento genera la cosiddetta spirale del silenzio. Lei non parla per il timore di un giudizio aziendale sulla sua persona e così non parlano i suoi colleghi e magari nemmeno i dirigenti, con il risultato che la qualità sarà sempre più scarsa e lo scontento insomma sarà e qualcuno sempre magari maggiore. Ci guadagna, perché nelle mense spesso c'è qualcuno che ci guadagna a spese di chi ci va a mangiare. E quindi interrompere questa spirale del silenzio riguarda proprio la responsabilità personale e professionale che sta appunto nell'evidenziare i rischi del malcontento e della scarsa qualità e contribuire soprattutto a conservare come dire, intatto il valore del beneficio per l'azienda e per le persone. Sì, certo, se no era meglio non darla alla mensa. Seconda certo. Pillola. E seconda pillola, come farlo? Dovrebbe impegnarsi in un'analisi attenta, precisa, professionale, superando quindi le ragioni che possono derivare dal suo gusto, dalle sue abitudini, in un'ottica di soddisfazione di una comunità di persone e considerando quindi i bisogni complessivi. In sintesi, dovrebbe valutare per esempio la composizione, la scelta del menù rispetto a diete diverse, annotare le difformità dagli standard di qualità. Lei per esempio accenna a pesce di dubbia provenienza, ecco. Spesso nelle mense si mangia il pangasio, che è un pesce cinese veramente di dubbia provenienza. Se uno accerta che quel pesce lì è il pangasio, è meglio, come dire, avvertire che non è sempre rassicurante. Questo accertarsi, quindi questo raccogliere dati oggettivi, definire esattamente la qualità, la provenienza, la tracciabilità del cibo, ecco, dovrebbe impegnarsi e riuscire ad ottenere questi dati in un periodo che possa offrire anche un'analisi statistica. Osserverà anche però i comportamenti delle persone, soprattutto quelle lontane dal suo ambito operativo. Osserverà il tempo di permanenza in mensa, il cibo che viene lasciato sul piatto. Certo. Quindi questa raccolta di dati sarà un'analisi professionale, e con la terza pillola e questa analisi potrà rivolgersi prima di tutto a chi la conosce bene, a chi sa che non è una persona noiosa o maleducata, ma è una persona responsabile, quindi al suo capo, al suo responsabile diretto. Eventualmente anche con il suo supporto potrà proporre alla direzione risorse umane di dispensare un questionario di soddisfazione del cliente interno. Certo. Che oggi, insomma, come sappiamo bene, è uno strumento per valutare appunto se chi ha ricevuto l'incarico, servizio, no, ma poi l'incarico di dare un servizio, cioè la mensa, si sta comportando bene o no. Ma certamente è importante misurare la soddisfazione, ed è importante avere anche uno strumento per capire se, nel caso in cui il fornitore sia esterno, le aspettative che l'azienda aveva riposto in questo fornitore sono ancora garantite, e quindi eventualmente rinegoziare, no? Ma se per esempio il servizio mensa è interno, attivare delle azioni di miglioramento. E soprattutto valutare il rischio di problemi di diverso tipo, problemi ovviamente di salute più, anche i perché più gravi di l'abbiamo salute. l'abbiamo detto che secondo lo studio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro una non adeguata alimentazione nelle mense può provocare una perdita di produttività pari al 20%. Assolutamente, e al di là della perdita di produttività, anche la compatibilità dei cibi rispetto alle varie attività, perché assistiamo a mense dove appunto persone hanno per esempio orari diversi o attività diverse, e non sempre i cibi sono così coerenti con le varie attività, per esempio, delle persone. E quindi questo strumento serve a evitare il rischio di problemi, dai più importanti quelli di salute, in modo che il momento della mensa sia davvero un momento gratificante, ma anche nutriente sotto il profilo motivazionale, per la fiducia che le persone ripongono nell'azienda riguardo la coerenza dell'attenzione al loro benessere. Certo, se uno va in mensa volentieri e sente che quel prodotto, quel cibo che è lì è fatto anche per farlo star bene, uno ci va più contento e due non si arrabbia con il proprio datore di lavoro. Grazie Carla Ciani, grazie e buona domenica. Buona domenica.